Benvenuti a Dedicato! Yeah! Questa settimana, ragazzi, abbiamo una puntata alla quale tengo veramente moltissimo, perché parliamo di Palestina ancora e non smetteremo di parlarne, perché questo purtroppo è un momento storico in cui non si può fare altro. Il nostro primo step è stato parlare con la mamma di Vittoria Arrigoni, Egidia Beretta, che la settimana scorsa ci ha raccontato il percorso di Vittorio passo passo, proprio la sua storia, quindi quello che Vittorio ha vissuto per arrivare in Palestina, perché la sua storia è stata anche in altri luoghi e in altri pensieri. E questo è stato il nostro primo step. Il secondo step è in questa puntata, dove siamo andati a cercare e a parlare con dei compagni, dei veri e propri compagni, compagni di vita fondamentalmente, perché tutti diciamo militanti all'XM24, il noto centro, non era un centro sociale, era un luogo, era un non luogo, era un insieme di menti e di persone racchiuse in questa scatola che era l'ex mercato ortofrutticolo di via Fioravanti. E all'interno nascevano progetti, nascevano idee, nascevano tante cose, non potrei dire in un'unica frase che cosa nasceva l'XM24, ma nacque nel 2010 circa, abbiamo iniziato a pensarci, e poi nel 2011-12 e in quegli anni lì si è concretizzato questo progetto che si chiama Moving to Gaza, dal quale è nato poi un film documentario veramente molto bello e interessante che si chiama Strip Life e che si può vedere ancora oggi su OpenDB, quindi insomma se siete interessati lo potete trovare tranquillamente sul web. Ed è proprio un film con la regia di Andrea Zambelli, Valeria Testagrossa e Nicola Grignani. Ed è stato un percorso di vita, perché i ragazzi di XM hanno fatto due viaggi, da quello che mi ricordo, e comunque ce lo racconteranno in questa puntata, due viaggi a Gaza, due viaggi dove hanno non solo fatto la fatica di entrare in Palestina, perché non è così immediato, non era così immediato, adesso è impossibile, e hanno creato un rapporto col territorio per fare questo film, quindi hanno sviluppato forme laboratoriali, hanno passato del tempo sano con i palestinesi e con le persone che sono riusciti a conoscere e ad avvicinare per creare appunto questo film. Il progetto chiaramente è molto più ampio, ce lo racconteranno loro, e sono due delle persone, degli attivisti, che sono andati là sul territorio. Sono andati in due momenti diversi. Prox, la nostra fedele inviata e amica, ci è andata nel primo viaggio, e poi Dirk nel secondo viaggio, quindi avremo le loro voci. Iniziamo ad ascoltare Prox, che è stata la prima a partire insieme a altre, secondo me, una decina di persone, forse di più anche, e comunque tutti in partenza dalla Bolognina. Il viaggio a Gaza, a cui ho partecipato io, è stato, diciamo, nell'ambito del progetto Moving to Gaza, che si proponeva di fare un documentario su Gaza, per Gaza, con Gaza, in un periodo storico abbastanza burrascoso, diciamo, perché il viaggio è stato, diciamo, fra il 2011 il primo, e il secondo è stato poi l'anno dopo. Dal primo al secondo viaggio il progetto è diventato veramente un documentario e si è intitolato Strip Life. Questo film poi ha girato moltissimi festival e ha anche ricevuto riconoscimenti, come per esempio al Torino Film Festival. Inizialmente eravamo 4-5 persone, poi se ne sono aggiunte altre nel secondo viaggio, diverse da quelle del primo, quindi c'è stato un po' un ricambio anche di persone. a mio avviso questa è stata una cosa molto interessante perché più persone di noi hanno avuto la possibilità di conoscere quella realtà. Dico la possibilità perché entrare a Gaza, così come uscire, non è mai stato semplice. Chiaramente era più semplice in quel momento rispetto ad ora, ma è stato un bel esercizio di preparazione durato mesi, ecco, in cui ci siamo scervellati sul come entrare, grazie a chi, sponsor di chi, eccetera, eccetera. Questa idea nasce comunque, quindi ha usato anche il canale di un viaggio fatto l'anno precedente, quindi il 2010, se non sbaglio. Comunque, insomma, subito dopo la morte di Vittorio Arrigoni, l'uccisione di Vittorio Arrigoni. Dopo la sua morte ci fu una carovana partita dall'Italia con vari compagni da varie parti d'Italia che hanno deciso di rompere l'assedio a Gaza. E ora non ricordo il numero esatto, però insomma ricordo che avevano riempito un bel pullman pieno, quindi era una carovana, carovana, non era uno sparuto gruppo come quello che è stato poi Moving to Gaza. All'epoca Gaza veniva bombardata praticamente mensilmente, era già la prigione a cielo aperto, che poi diciamo ora è diventata un territorio martoriato dal genocidio, però ecco, non è che all'epoca fosse un luogo facile in cui vivere. Questa carovana aveva riportato un po' il focus, l'attenzione su quel territorio, sulle condizioni che quel territorio viveva, riuscendo a passare dall'unico varco in quel momento ancora aperto, che era quello di Rafah al confine con l'Egitto. E che è quello che utilizziamo poi anche noi per entrare nei due viaggi che ha fatto, insomma, il progetto Moving to Gaza Strip Life. بتعز في الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي يا اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي يا اخي لن تختفي يا اخي لا يتخلد اسمك في غزتي يا اخي صاحب العرق الغربي فلسطين اتبنتك واصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات أعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة أخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة إلا بوحدة الشعب إلا برجوع الأرض أرضي تناديكم خدر المعادي بشد على الايادي بالايد مساعد محم الموت قلبه نابض بالصوت رافض السكوت وصاحب علم الصوت اناديكم اشد اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامه بغفله تم القدر بلحظه خرجت الدموع بلحظه الشموع تتخطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف فيتوريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي فيتوريو إحنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض Una Decom Calling You, Darg Team, un brano dedicato a Vittoria Arrigoni, meraviglioso brano che ci ha suggerito la mamma di Vittoria Arrigoni, Egidia. La settimana scorsa ci aveva lasciato un elenco di brani che secondo lei potevano essere interessanti da ascoltare nella nostra trasmissione e noi ovviamente li stiamo mettendo tutti. Grazie Egidia. Ora ascoltiamo di nuovo la voce di Prox che continua a raccontarci il viaggio in Palestina con Moving to Gaza. Personalmente per me è stata un'esperienza importante e interessante per la mia formazione umana, prima che politica, perché come tutti sappiamo, insomma, Gaza è sempre stato un territorio con un allarme umanitario incredibile, nonostante oggi qualcuno, in televisione o nei giornali, scrive che comunque a Gaza si viveva bene. Ciò non è vero, c'è sempre stato un problema di acqua, problema acqua potabile, problema di energia elettrica, difficoltà nel trovare carburante, discariche dell'immondizia. È sempre stata con i confini chiusi, quantomeno in questi 30 anni, la buffer zone e i confini delle acque si sono sempre più ristretti col passare degli anni. In buffer zone hanno sempre sparato dal lato israeliano, quindi chiaramente la resistenza in Gaza ha sempre anche reagito. Quindi insomma questa è sempre stata la realtà che hanno vissuto prima del 7 ottobre le persone che vivevano a Gaza. Questo è storia, questa è cronaca, questo è un dato di fatto, nessuno può cancellare questo, nonostante ora qualcuno appunto cerchi di, diciamo, ribaltare la verità. Questo è quello che ho visto anche io quando sono arrivata lì, non ho visto nulla di diverso. Entrare a Gaza è stato difficile perché arrivando dall'Egitto, quindi non da Israele, anche perché era impossibile arrivare a Israele, c'era tutta una questione dell'ambasciata italiana, di come l'ambasciata italiana avrebbe potuto darci un visto. Gli egiziani il visto non ce lo davano, insomma, non essendo né associazioni ufficiali né giornalisti né nulla, insomma era un po' difficile per noi, essendo che comunque eravamo un gruppetto di compagne arrivati messi insieme in un centro sociale che semplicemente voleva utilizzare questo progetto per poter entrare in contatto con altre persone di Gaza. E il progetto per noi era poi non solo entrare in contatto, ma lavorare insieme a persone di Gaza per poter raccontare quel territorio, le persone di quel territorio, al di là della morte e distruzione che normalmente caratterizza qualsiasi notizia, qualsiasi informazione da Gaza. Cioè era un po' un modo per far vedere che le persone in quel territorio lì comunque vivono, resistono vivendo quel territorio, vivendolo nella loro normalità, con la loro quotidianità, con anche l'amore per quel territorio, la voglia di continuare a viverlo quel territorio. Ecco, un po' secondo me era questo quello che noi volevamo far trasparire dal film. Poi mi auguro sia successo delle persone che lo hanno visto. Fondamentalmente quindi la sfida era non solo riuscire a entrare a Gaza, ma poi anche una volta a Gaza conoscere le persone che veramente volevano raccontarsi e raccontare quel territorio, diciamo, supportate in cooperazione con noi. Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito, in furia il pirata americano. Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna ha in pugno il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina, accanto a quella del Vietnam. chiamano banditi i giornali dei padroni che chiamavano assassini partigiani. Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta. Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda. Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione, fino alla vittoria! Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Abbiamo ascoltato Rossa Palestina e ora continuiamo a parlare con Prox, che finisce di raccontarci questo ultimo step del loro primo viaggio per Moving to Gaza. Poi ascolteremo Dirk invece, che ha fatto il secondo viaggio l'anno successivo e ha realizzato insieme alla troupe e ai ragazzi, insomma, che sono partiti, il film Strip Life. Però Dirk lo ascolteremo la settimana prossima perché i tempi stringono e quindi ascoltiamo Prox e poi ci salutiamo. Niente, quindi siamo riusciti a entrare grazie a un piccolo sponsoring, cioè una lettera di intenti da parte italiana e un'altra da parte palestinese. Sicuramente l'associazione messa insieme da Mary Calvelli a Gaza ci ha aiutato, è intitolata Vittorio, quindi siamo riusciti a entrare con non poche difficoltà, però ecco, ci sono voluti un po' di mesi per mettere insieme tutti i puzzle e una volta lì devo dire che Mary è stata fondamentale per poter conoscere tutti i ragazzi, compagni, non solo ragazzi. Erano intorno alle stanze e al progetto di quell'associazione, di quel luogo lì, e che avevano voglia di farci conoscere, di farsi intervistare o di farci conoscere persone da intervistare che avrebbero potuto essere parte di questo progetto. Devo dire che a livello psicologico è stato molto impattante vedere una realtà come quella, a cui non eravamo molto preparati, perché nonostante ognuno di noi avesse visto già situazioni di quel tipo, Gaza era un altro livello. La brutalità con cui la popolazione veniva soggiogata era un livello che non avevo mai, a cui non avevo mai assistito. Chiaramente non è paragonabile con la situazione di adesso. Condizioni di vita lì erano pensate per semplicemente fare venire la voglia di andarsene. Comunque ponevano le persone in una situazione di stress perpetuo. Io non ricordo una persona di Gaza che non fumasse o che non avesse attacchi di panico, che non fosse, diciamo, sotto una morsa di stress perpetuo. Poi questo non significa che i bambini non giocavano per strada o che le persone non vivevano anche col loro sorriso, no? Però per la mia piccola, brevissima esperienza, mi sono anche resa conto che nonostante il loro stress, le persone cercavano di vivere la loro quotidianità, ma quello stress si percepiva costantemente. È stato anche in un certo modo un insegnamento che mi sono portata, no? A casa. Tenere duro, perché in fondo quella è la tua vita, devi resistere e anche esistere, no? E non lasciarmi, no, me lo ripeto sempre, di non lasciarmi scoraggiare, perché comunque nonostante tutto io sono tornata a casa mia e vivo il mio privilegio di poterlo fare. Penso che in qualche modo questo sia quello che una persona internazionale può che aver potuto imparare dall'aver passato quel confine lì, in quei mesi in cui siamo stati lì. Il risultato poi finale di questo progetto, che è Strip Life, è un grande motivo di orgoglio perché comunque è uscito un bel lavoro, è uscito un lavoro, diciamo, in cooperazione anche con ragazze della striscia che hanno una forte professionalità che noi tra l'altro non immaginavamo, una forte creatività e professionalità. E questo è un'esperienza che ognuno di noi si è portato comunque nel cuore, no? La cooperazione che va oltre i confini ha un significato anche simbolico importante, no? Lì dove i confini dello Stato non ti rendono la vita facile, tu porti fuori le voci e tu entri la tua voce in quei territori lì, nonostante appunto questi confini. Grazie Prox per essere stata con noi questa puntata e per aver dato voce a Moving to Gaza, questo progetto partito dall'XM24, dalla Bolognina e ovviamente in collaborazione con Teleimmagini, che era la nostra TV di XM, una TV molto particolare. Chi ci ha conosciuto e si è affiancato all'XM24 sa di cosa parliamo, ha prodotto veramente di tutto di più negli anni, documentari, film, serie, ha fatto delle immagini, ha fatto la storia, insomma, e non solo in Bolognina, devo dire, ma in tutta la città e oltre, perché poi chi partecipava ai progetti di Teleimmagini nella vita ha fatto cose, ecco, quindi insomma è stato veramente un incipit di tanti pensieri collettivi e poi anche individuali. E devo dire che da XM nascevano sempre un po', no? Questi progetti e questi momenti di condivisione. Quindi grazie Prox per essere stata con noi. Noi ci risentiamo la prossima settimana e ascolteremo la voce di Dirk, che è partito l'anno successivo rispetto a Prox e che ha portato a termine un progetto veramente interessante, perché Strip Life è il prodotto finale di quello che è scaturito nel progetto Moving to Gaza e negli anni appunto di pensieri e di viaggi. Ci risentiamo la settimana prossima, quindi sempre alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole va sempre più giù. Che ho stasera dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco